Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Dedica e introduzione alla sesta notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Alle graziose ed amorevoli donne. Giovan Francesco Straparola da Caravaggio. Salute. Sono molti, amorevoli donne, i quali o per invidia o per odio mossi cercan con minacciosi denti mordermi e le misere carni squarciare, imponendomi che le piacevoli favole da me scritte ed in questo e nell'altro volumetto raccolte non siano mie, ma da questo e quello ladronescamente rubate. Io, a dire il vero, il confesso che non sono mie, e se altrimenti dicesse me ne mentirei, ma benolle fedelmente scritte secondo il modo che furono da 10 damigelle nel concistorio raccontate. E se io ora le do in luce, non fo per insuperbirmi, né per acquistare onore e fama, ma solo per compiacere a voi, e massime a quelle che mi ponno comandare, e dalle quali in perpetuo sono tenuto ed obbligato. Accettate adunque, graziose donne, con allegro volto il picciol dono del servo vostro, né date fede agli abbaiatori, che contra noi con canina rabbia e con mordaci denti si muovono, ma leggetele alle volte e pigliatene a luogo e tempo, trastullo e diletto, non lasciando però quello da cui ogni nostro bene procede. State felici, memore di quelli che nel cuore scolpite vi tengono, tra quali non credo essere il minimo. Da Vinegia, il 1° settembre 1553. Comincia il libro secondo delle favole ed enimmi di Messer Giovan Francesco Straparola da Caravaggio, intitolato Le piacevoli notti. Notte sesta. Le tenebre della scura notte già da ogni parte si dimostravano, e le dorate stelle per lo spazioso cielo non davano più il loro lume, ed Eolo, correndo sopra le salse onde con grandissimo soffiamento, non solamente faceva grossissimo il mare, ma ancora a naviganti era molto contrario, quando la bella e fida compagnia, sprezzato ogni sforzevole vento e gonfiamento di mare e duro freddo, all'usato luoco si ridusse, e fatta primieramente la debita riverenza alla signora, ciascuno nella sua sedia si pose a sedere. Indi la signora comandò il vaso aureo le fusse portato, e postovi dentro di 5 damigelle il nome. Il primo che uscì fuori di Alteria fu il nome, il secondo di Arianna, il terzo di Cateruzza, il quarto di Lauretta, il quinto di Eritrea. Poscia la signora impose che tutte 5 una canzonetta cantassero, le quali a lei comandamento ubbidientissime in tal guisa soavemente cantarono. Sa bei principi, amor, di fede armati, corrispondesse con Madonna il fine, un qual tuo col suo nome arrebbe fine. Ma penso, ahimè, che né lei la tua possanza non è di tal valor che stringa il freno a ralto suoi pensier d'onne sta pieno, ch'assai mi dà desir più che speranza, anzi veggio nei bei modi temprati quasi molesta farsi in te fortuna, sì che il suo nome vive, il tuo si imbruna. Fine della dedica e dell'introduzione alla sesta notte. Registrazione di Roberto Cofini.